Nelly Rubina. Credo che non finirà mai, mai. Jane depose il suo volume di Robinson Crusoe e guardò malinconica fuori dalla finestra. La neve cadeva a larghe falde, ricoprendo il parco i marciapiedi e le case del viale dei ciliegi con il suo gran mantello bianco. Da una settimana non smetteva di nevicare e durante tutto quel tempo i bambini non avevano potuto uscire neppure una volta. Non me ne importa, non me ne importa molto, rispose Michael dal pavimento ove era occupato a mettere in ordine gli animali della sua arca di Noè. Possiamo essere eschimesi e mangiare balene. Stupido, come possiamo mangiare balene quando la neve ci impedisce persino di mettere fuori il naso e andare a comprare le pastiglie per la tosse? Potrebbero venire qui le balene? Lo fanno qualche volta, egli ribatté. Come fai a saperlo? Beh, non lo so con precisione, ma potrebbero farlo. Jane, dov'è la seconda giraffa? Oh, eccola qui, sotto la tigre. Pose le due giraffe insieme nell'arca. Le bestie entrarono a due, la mucca, l'asino, il cane e il bue, cantò Michael. E poiché non aveva un bue, mise dentro un asino con la mucca e dietro il signore e la signora Noè che sorvegliavano. Mi domando perché non hanno parenti. Egli osservò tutta un tratto. Chi? Domandò Jane seccata perché non voleva essere disturbata. I Noè? Non li ho mai visti con una figlia, un figlio, uno zio o una zia. Perché? Perché non ne hanno, rispose Jane. Lasciami in pace. Beh, facevo solo un'osservazione. Non posso fare un'osservazione se voglio. Cominciava anche lui a sentirsi seccato e stufo di essere relegato nella sua stanza. Si alzò e cominciò a gironzolare intorno alla sorella. Dicevo solo, cominciò con petulanza, dando una spinta alla mano di lei che teneva il libro, ma ecco che la pazienza di Jane sparì ed ella gettò Robinson Crusoe attraverso la stanza. Come osi disturbarmi? Gridò volgendosi a Michael. E tu, come osi impedirmi di fare un'osservazione? Non ti ho detto nulla. Sì, me l'hai detto. Jane cominciò a scuotere furiosamente Michael per le spalle ed egli le afferrò una grossa ciocca di capelli. Beh, cosa sta succedendo? Mary Poppins stava sulla soglia, fulminandoli con lo sguardo. Si separarono. Lei mi scuoteva, gemette Michael, ma sbirciò Mary Poppins con un'occhiata da colpevole. Mi ha tirato i capelli. Singhiozzò Jane, ma nascose la testa fra le mani perché non osava sostenere quello sguardo severo. Mary Poppins avanzò verso di loro. Portava sul braccio una pila di cappotti, berretti e sciarpe e i gemelli, con gli occhi pieni di interesse, le stavano alle calcagna. Preferirei, ella osservò arricciando il naso, dover badare a una famiglia di cannibali, sarebbero più umani. Ma lei mi ha malmenato, ricominciò Michael. Zitto là o la lingua ti cadrà, gli rispose Mary Poppins. E poiché sembrava che egli volesse protestare, non osare replicare, ingiunse severa, e gli porse il cappotto. Vestitevi, per favore, usciamo. Usciamo? Quasi non potevano credere alle loro orecchie. Ma al suono di quelle parole il cattivo umore svanì. Michael, nell'abbottonarsi la giacca, sentì rimorso di aver dato noia a Jane. E cercò lo sguardo di lei che si stava infilando un berretto di lana, ricevendone in cambio un sorriso. Evviva, evviva, evviva! Gridarono, battendo le mani guantate di lana. Cannibali! Ripeté Mary Poppins con indignazione e li spinse avanti a lei giù per le scale. La neve aveva cessato di cadere, ma era accumulata in grossi mucchi lungo il giardino e oltre, nel parco. Copriva ogni cosa come una pesante coperta bianca. I rami spogli degli alberi di ciliegio erano coperti di uno scintillante strato di neve e le cancellate del parco, una volta verdi e sottili, ora apparivano bianche e piuttosto lanose. Giù nel sentiero del giardino, Robertson Hay faceva lavorare languidamente la sua pala, fermandosi ogni due passi per riposarsi a lungo. Indossava un vecchio cappotto del signor Banks, troppo grande per lui. Appena aveva sgombrato con la pala un tratto del sentiero, il cappotto, strascicandogli dietro, faceva cadere un nuovo ammasso di neve sul sentiero pulito. Ma i bambini lo oltrepassarono di corsa e giunsero al cancello, gridando, schiamazzando e agitando le braccia. Fuori, nel viale, si sarebbe detto che tutti gli abitanti del quartiere stessero prendendo aria. «Oi là, marinai!» gridò una grossa voce tonante mentre l'ammiraglio Boom veniva verso di loro per salutarli. L'ammiraglio era avvolto dalla testa ai piedi in un ampio mantello invernale e il suo naso era più rosso di quanto l'avessero mai visto. «Buongiorno», dissero gentilmente Jane e Michael. «Bordo e tribordo», gridò l'ammiraglio. «Io non lo chiamo un buongiorno questo, no, no, no! Una orribile, gelida, tempestosa giornata la chiamo io. Perché non viene la primavera? Ditemelo voi. Andiamo, Andrea, su, su, su, Willoughby, tenetevi accosto a mammina. La signorina Lark, avvolta in un lungo mantello di pelliccia, con in testa un cappello pure di pelliccia simile a una copritegliera, stava facendo fare una passeggiata ai suoi due cani. Buongiorno a tutti, li salutò con rumorosa cordialità. Che tempo, dove è andato il sole e perché non viene la primavera? Non me lo domandate, madama, gridò l'ammiraglio Boom. Non è affar mio. Dovreste andare un mese al mare. Là, sempre tempo bello. Andate al mare. Oh, ammiraglio Boom, non posso. Non ne ho il tempo. Sono uscita soltanto per comprare un cappottino di pelliccia ad Andrea e a Willoughby, uno per ciascuno. I due cani si scambiarono uno sguardo di vergogna e di orrore. Cappottini di pelliccia, brontolò l'ammiraglio. Che sia fulminato il mio albero maestro. Cappottini di pelliccia per una coppia di bastardi. Virate, porto, dico, su l'ancora, cappottini di pelliccia, puà. Ammiraglio, ammiraglio, gridò la signorina Lark, tappandosi le orecchie con le mani. Che linguaggio, vi prego, vi prego. Ricordate che non ci sono abituata, i miei cani non sono bastardi, affatto. Uno ha un lungo pedigree e l'altro possiede almeno un cuore gentile. Bastardi, dite. E se ne andò in fretta parlando a se stessa con una voce acuta, irritata, mentre Andrea e Willoughby le camminavano dietro, uno accanto all'altro, scodinzolando con aria imbarazzata e vergognosa. L'uomo dei gelati passò sul suo triciclo a fortissima velocità, facendo suonare freneticamente il campanello. Non mi fermate, altrimenti prenderò freddo, diceva la scritta sul suo carretto. Quando mai arriverà la primavera? Gridò l'uomo dei gelati allo spazzacamino che in quel momento girava l'angolo. Per ripararsi dal freddo, lo spazzacamino si era tutto ricoperto di spazzole. Più che un uomo assomigliava a un porcospino. Brr, brr, brr, diceva la voce dello spazzacamino attraverso le spazzole. Cosa vuoi dire? Domandò l'uomo dei gelati. Niente, faccio così per riscaldarmi. Brr, rispose lo spazzacamino e scomparve nell'entrata di servizio della signorina Lark. Presso le cancellate del parco stava il guardiano che agitava le braccia, batteva i piedi e si soffiava sulle mani. Avremo bisogno di un po' di primavera, eh? Disse allegramente a Mary Poppins mentre ella e i bambini entravano. Io sono soddisfatissima così, replicò Mary Poppins altezzosamente e drizzò la testa. Soddisfatta di se stessa, direi io, il guardiano brontolò, ma lo disse dietro la mano in modo che udirono soltanto Jane e Michael. Michael trotterellava dietro, si fermò e raccolse una manciata di neve che cominciò a rotolare tra le mani. Jane, cara! Chiamò con voce tenera. Ho qualcosa per te. Jane si voltò e la palla di neve, fischiando nell'aria, la colpì sulla spalla. Con un grido si mise anche lei a scavare nella neve ed ecco che palle cominciarono a volare per l'aria in tutte le direzioni e dentro e fuori, tra le scintillanti palle lanciate, camminava Mary Poppins, altezzosa e ordinata, pensando fra sé se quanto dovesse apparire elegante con i suoi guantoni di lana e il suo cappotto di pelo di coniglio. E mentre pensava queste cose, una grossa palla di neve sfiorò la falda del suo cappello e atterrò sul suo naso. Oh! gridò Michael mettendosi le mani davanti alla bocca. Non volevo colpirti, Mary Poppins! Proprio non lo volevo, era per Jane! Mary Poppins si voltò e la sua faccia quale apparve tra i resti della palla di neve frantumata, era terribile. Mary Poppins, ripeté Michael con sincerità, mi dispiace, è stato un incidente. N'incidente o no? Ella replicò, questa è la fine delle vostre palle di neve. N'incidente, guarda un po'. Ah, un cannibale sarebbe più educato. Si spazzò via dal naso i resti della palla di neve e, rotolandoli tra le mani guantate, ne fece una piccolissima palla. Quindi la lanciò attraverso il prato ricoperto di neve e le andò dietro battendo i piedi con aria altezzosa. Ecco, l'abbiamo fatta bella, mormorò Jane. Ma non ne avevo proprio l'intenzione, le rispose Michael sommessamente. Lo so, ma tu sai com'è fatta lei. Mary Poppins, giungendo al posto dove era caduta la palla di neve, la raccolse e la lanciò nuovamente con forza molto lontano. Dove sta andando? Disse Michael all'improvviso. Perché la palla di neve ruzzolava ora sotto gli alberi e invece di proseguire per il sentiero, Mary Poppins le correva dietro. Ogni tanto si tirava da parte per evitare un po' di neve che cadeva mollemente da un ramo. Non riesco quasi a starle dietro, esclamò Michael inciampando per il gran correre nei suoi stessi piedi. Mary Poppins affrettava il passo. I bambini ansimavano per tenerle dietro e quando finalmente l'ebbero raggiunta, osservarono che la palla di neve era finita accanto alla più strana costruzione che avessero mai visto. Non mi ricordo di aver mai visto questa casa prima, esclamò Jane con gli occhi spalancati per la sorpresa. Assomiglia a un'arca più che a una casa, soggiunse Michael stupito. La casa poggiava solidamente sulla neve, ormeggiata con una grossa corda al tronco di un albero. Intorno, come una veranda, si stendeva una lunga passerella sottile e l'alto tetto a punta era dipinto in rosso scarlatto. Ma la cosa più curiosa era che mentre abbondavano le finestre, non c'era neppure una porta. Dove siamo? Domandò Jane, piena di curiosità ed emozione. Mary Poppins non rispose, percorse la passerella e si fermò davanti a una scritta. Battere 3 colpi e mezzo. Che significa mezzo colpo? Sussurrò Michael a Jane. Cist! Lo zittì lei, accennando con il capo verso Mary Poppins. Il suo cenno voleva dire più chiaramente che se avesse parlato, siamo alla vigilia di un'avventura, non sciuparla con domande inutili. Mary Poppins, afferrato il batacchio che pendeva sopra la scritta, batté 3 colpi contro il muro. Quindi, tenendolo delicatamente fra l'indice e il pollice guantati di lana, picchiò il più leggero, il più piccolo, il più aggraziato dei colpi. Così, rap tap. Immediatamente, come se fosse stato in ascolto di quel segnale, il tetto dell'edificio si sollevò sui cardini. Mio Dio! Michael non poté trattenersi dall'esclamare perché il tetto, nel sollevarsi, gli aveva quasi fatto volare via il cappello. Mary Poppins avanzò sino al limite della stretta passerella e cominciò ad arrampicarsi su per una ripida scaletta. Giunta in cima, si volse e con aria solenne e importante fece segno con il dito guantato di lana. Salite, per favore! I 4 bambini si affrettarono a seguirla. Saltate! Gridò Mary Poppins e saltò ella stessa giù nella casa dalla cima della scala. Si volse e sollevò i gemelli che erano avanzati a passi incerti, seguiti da Jane e Michael. E appena furono tutti dentro, sani e salvi, il tetto tornò a chiudersi con un lieve cigolio. Si guardarono intorno, 4 paia di occhi inebetiti per lo stupore. Che buffa stanza! Esclamò Jane. Ma veramente era più che buffa, era straordinaria. L'unico mobile della stanza era un grosso banco che si stendeva lungo una parete. I muri erano dipinti di bianco e addossati ai muri c'erano mucchi di legno intagliato in forma di alberi e rami, tutti dipinti di verde. Piccoli rami legnosi di foglie verniciate di fresco erano sparsi sul pavimento Dai muri pendevano numerosi cartelli che dicevano «Attenzione alla vernice», oppure «Non toccare», oppure «Non calpestare l'erba». Ma non era tutto. In un angolo c'era un gregge di pecore di legno con la lana ancora umida di vernice. Raggruppati in un altro angolo mazzetti rigidi di fiori, aconiti gialli, bucaneve verdi e bianchi e anemoni azzurri. Erano lucidi e appiccicosi come se fossero stati da poco verniciati. Lo stesso si dica per gli uccelli e le farfalle di legno ammucchiati in un terzo angolo e per le nuvole piatte e bianche, pure di legno, che si allineavano contro il banco. Ma l'enorme vaso, che stava su una mensola all'estremità della stanza, non era dipinto. Era di vetro verde riempito fino all'orlo di centinaia di piccole figure piatte di ogni sorta e colore. Hai proprio ragione, Jane, disse Michael spalancando gli occhi. È una buffa stanza. Buffa? Esclamò Mary Poppins con aria offesa come se fosse stata insultata. Ebbene, è strana. Strana? Michael esitò. Non riusciva a trovare la parola giusta. Intendevo dire che. Io trovo che sia una stanza graziosa, Mary Poppins, disse in fretta Jane, correndo ai ripari. E sì, proprio così, confermò Michael, molto sollevato, e aggiunse amabilmente: Ti trovo molto carina con questo cappello, Mary Poppins. La guardò di sottecchi, cautamente. Sì, il viso di lei si era un po' addolcito. C'era persino il principio di un sorriso soddisfatto agli angoli della bocca. Brontolò e si voltò verso il fondo della stanza. Nelly Rubina? Chiamò. Dove sei? Siamo arrivati? Vengo, vengo! La voce più esile e più acuta che si fosse mai udita si levò da dietro il banco. Ed ecco che dalla stessa direzione della voce emerse una testa ricoperta da un cappellino piatto. La seguì un corpo rotondo, piuttosto robusto, che teneva in una mano un barattolo di vernice rossa e nell'altra un tulipano piatto di legno. Senza dubbio, pensavano Jane e Michael, questa era la persona più strana che avessero mai veduto. Il volto e la figura erano giovanili, tuttavia sembrava fatta non di carne, ma di legno. Si aveva l'impressione che la sua nera capigliatura, lucente e rigida, le fosse stata scolpita in testa e poi dipinta. Gli occhi erano simili a piccoli buchi neri scavati nella faccia e certamente quelle macchie di rosa vivo sulle guance lucide erano dipinte. Ebbene, Mary Poppins, disse questa strana creatura con le rosse labbra che rilucevano mentre sorrideva. È gentile da parte vostra, devo dire. E posando la vernice e il tulipano, girò da dietro il banco e venne a stringerle la mano. Fu allora che i bambini notarono che ella non aveva affatto gambe. Dalla vita in giù era tutta d'un pezzo e si muoveva con un movimento rotatorio per mezzo di un disco rotondo e schiacciato che sostituiva i piedi. Ma no, affatto, Nelly Rubina, rispose Mary Poppins con insolita cortesia. È un piacere e un onore per me. Vi stavamo aspettando, naturalmente. Nelly Rubina proseguì. Desideravamo che ci aiutaste a. Si interruppe non soltanto perché Mary Poppins le aveva lanciato un'occhiata eloquente, ma perché si accorse della presenza dei bambini. Oh! Gridò con la sua voce acuta, piena di cordialità. Avete condotto Jane e Michael e anche i gemelli! Che sorpresa! Si chinò e strinse loro le mani con effusione. Ci conosci allora? Michael domandò fissandola con stupore. Oh mio caro, ma certo! Ella rispose con voce trillante e gaia. Spesso ho udito mio padre e mia madre parlare di voi. Felicissima di fare la vostra conoscenza. Rise e ricominciò a stringere loro la mano uno dopo l'altro. Pensavo, Nelly Rubina, disse Mary Poppins, che forse potreste concederci un etto di conversazioni. Oh, ma certo, ma certo! Disse Nelly Rubina sorridendo e roteando dietro il banco. Fare qualcosa per voi, Mary Poppins, è un onore e una gioia. Ma puoi darci le conversazioni a Etty? Si informò Jane. Sì, naturalmente, a Killy anche, o a Quintali, se preferisci. Nelly Rubina si interruppe, tese le braccia verso il grosso barattolo sulla mensola, ma erano troppo corte per arrivarci. Non sono abbastanza lunghe. Bisogna aggiungerne un pezzetto. Nel frattempo pregherò lo zio di tirarmele giù. Zio Dodger! Zio Dodger! Gridò le ultime parole attraverso una porta dietro il banco e subito apparve una persona dall'aspetto bizzarro. Era rotondo come Nelly Rubina, ma molto più vecchio, e il suo volto era atteggiato a una profonda tristezza. Anche lui aveva in testa un cappellino piatto e sembrava fatto di legno come la nipote. E Jane e Michael poterono vedere, quando egli per un momento si tirò il grembiule da una parte, che come Nelly Rubina era tutto d'un pezzo dalla vita in giù. In mano teneva un cuculo di legno dipinto per metà, di vernice grigia, e c'erano chiazze della stessa vernice sul suo naso. «Mi hai chiamato, cara?» domandò con voce dolce e rispettosa. Poi vide Mary Poppins. «Ah, eccovi finalmente, signorina Poppins. Nelly Rubina sarà contenta. Vi stava aspettando perché ci aiutaste a...» Notò la presenza dei bambini e si interruppe all'improvviso. «Oh, domando scusa, non sapevo che ci fosse compagnia, mia cara. Vado a terminare quest'uccello.» «No, zio Dodger!» lo richiamò Nelly Rubina seccamente. «Ti prego di tirarmi giù le conversazioni, vuoi essere tanto gentile?» Quantunque ella avesse una faccia benevola e gioviale, i bambini notarono che quando parlava allo zio dava ordini piuttosto che domandare favori. Lo zio Dodger si slanciò in avanti con una velocità che sembrava impossibile in un uomo senza gambe. «Certo, mia cara, certo!» tese le braccia in alto e prese il barattolo dalla mensola. «Davanti a me, per favore», ordinò con alterigia Nelly Rubina. Sollecito, lo zio Dodger spinse avanti il barattolo. «Eccoti servita, mia cara.» «Sono quelle le conversazioni?» domandò Jane puntando il ditino sul barattolo. «Sembrerebbero caramelle.» «Difatti, signorina, sono caramelle conversazioni», spiegò lo zio Dodger e spolverò il barattolo col grembiule. «Si mangiano?» interrogò Michael. Lo zio Dodger, lanciando un'occhiata prudente a Nelly Rubina, si sporse attraverso il banco. «Sì, certo», mormorò dietro la mano. «Io no, però, perché sono uno zio acquisito, ma lei», con il capo accennò rispettosamente alla nipote, «lei è la figlia maggiore e la discendente diretta.» Né Jane né Michael compresero quel che intendesse dire, ma assentirono educatamente. «Ora», gridò Nelly Rubina togliendo il coperchio dal barattolo, «chi sceglierà per primo?» Jane infilò la mano e tirò fuori una caramella piatta a forma di stella, simile a una mentina. «C'è scritto qualcosa?» esclamò. Nelly Rubina scoppiò in una risata. «Certo, è una conversazione, leggi!» sillabò Jane ad alta voce. «Com'è gentile!» trillò Nelly Rubina e spinse il barattolo verso Michael. Egli estrasse una caramella rosa a forma di conchiglia. «Ti amo, mi ami tu?» lesse forte. «Questa è buona, sì, certo!» Nelly Rubina rise rumorosamente e gli diede un rapido bacio che gli lasciò una traccia appiccicosa di vernice sulla guancia. La conversazione gialla di Giovannino diceva: «Giro, giro, tondo andiamo per il mondo.» E in quella di Barbara era scritto a grosse lettere: «Brillante, lucente e aerea.» «E tu sei così!» gridò Nelly Rubina sorridendole da sopra il banco. «Ora voi, Mary Poppins!» E mentre Nelly Rubina spingeva il vaso verso Mary Poppins, Jane e Michael videro che si scambiavano fra loro un curioso sguardo d'intesa. Mary Poppins, socchiudendo gli occhi, si tolse il guantone di lana e infilò la mano nel barattolo delle conversazioni. Ne trasse una caramella bianca a forma di mezzaluna. «Stasera alle 10», disse Jane, leggendo l'iscrizione ad alta voce. Lo zio Dodger si strofinò le mani. «Giusto! È l'ora in cui noi...» «Zio Dodger!» lo ammonì Nelly Rubina. Il sorriso sparì dal volto di lui, lasciandolo più che mai triste. Ti domando scusa, mia cara, mormorò umilmente. Sono vecchio, temo, e qualche volta dico le cose sbagliate. Ti domando scusa. Appariva vergognoso di se stesso, ma in vero Jane e Michael non riuscivano a comprendere cosa avesse egli detto o fatto di sbagliato. Beh, disse Mary Poppins nell'infilarsi con cura la sua conversazione nella borsetta, ci scuserete, Nelly Rubina, credo che faremo bene ad andarcene. Oh, dovete proprio andare? Nelly Rubina roteò un poco sul suo disco. È stata una tale soddisfazione. Eppure, guardò fuori dalla finestra, potrebbe ricominciare a nevicare e allora non potreste più uscire di qui. E voi non ne sareste contenti, vero? Gridò volgendosi ai bambini. Io sì, rispose Michael risoluto. Mi piacerebbe molto restare, così forse verrei a sapere a cosa servono questi. E col ditino indicò i rami dipinti, il gregge, i fiori e gli uccelli. Quelle? Oh, quelle sono semplici decorazioni, spiegò Nelly Rubina, congedandoli con un affabile cenno della mano. Ma cosa ci fate? Lo zio Dodger si sporse attraverso il banco. Ecco, vedete, le prendiamo e zio Dodger! Gli scuri occhi di Nelly Rubina brillarono minacciosi. Oh, mia cara, ecco che ci ricado di nuovo. Parlo sempre quando non dovrei. Sono troppo vecchio, ecco cos'è. Si scusò lo zio Dodger. Nelly Rubina gli lanciò un'occhiata furiosa. Quindi si volse ai bambini con un sorriso. Arrivederci, disse stringendo loro le mani con effusione. Rammenterò le vostre conversazioni. Non penso che a te ti amo, giro giro tondo e brillante luce aerea. Hai dimenticato? La conversazione di Mary Poppins dice stasera alle 10, le ricordò Michael. Ah, ma lei non dimentica, esclamò lo zio Dodger e sorrise allegramente. Zio Dodger! Oh, perdonami, perdonami. Arrivederci, disse Mary Poppins. Si toccò la borsa con aria di importanza e scambiò un altro sguardo con Nelly Rubina. Arrivederci, arrivederci. Quando in seguito Jane e Michael ripensarono a tutta questa storia, non riuscirono a ricordare come erano usciti da quella curiosa stanza. Ecco che erano dentro e stavano dicendo addio a Nelly Rubina, e l'attimo seguente si trovavano fuori, nuovamente nella neve, stringendo le loro conversazioni e seguendo in fretta Mary Poppins. Sai, Michael, disse Jane, io credo che quella caramella fosse un messaggio. Quale, la mia? No, quella che ha scelto Mary Poppins. Vuoi dire? Eh sì, penso che succederà qualche cosa stasera alle 10 e voglio rimanere sveglia per vedere. Anch'io, assentì Michael. Avanti, per favore, camminate, disse Mary Poppins. Non ho tempo da perdere. Jane era sprofondata in un sogno, e nel sogno qualcuno la chiamava per nome, con una vocetta piena di premura. Si tirò su e trasalì, scorgendo Michael accanto a lei in pigiama. Avevi detto che saresti rimasta sveglia, egli mormorò in tono di rimprovero. Cosa? Dove? Perché? Oh, sei tu, Michael. Ebbene, anche tu lo avevi detto. Ascolta, egli disse. Si udì qualcuno camminare in punta di piedi nella stanza vicina. Jane parlò sottovoce rapidamente. Presto, torna a letto, fa finta di dormire, presto. Con un salto, Michael si ficcò sotto le coperte. Nel buio, lui e Jane trattennero il respiro in ascolto. La porta della stanza accanto si aprì silenziosamente. L'esile filo di luce si estese e si allargò. Una testa spuntò e scrutò nella stanza. Quindi qualcuno scivolò dentro e richiuse la porta senza fare rumore. Mary Poppins, avvolta nel suo mantello di pelliccia, con le scarpe in mano, attraversava in punta di piedi la stanza. I bambini rimasero quieti, ascoltando i suoi passi che si affrettavano giù per le scale. Lontano, la chiave della porta d'ingresso grattò nella toppa. Si udì un rumore di passi lungo il sentiero del giardino e il cancello cigolò. E in quell'attimo l'orologio suonò le 10. I bambini saltarono giù dal letto e corsero nell'altra stanza, ove le finestre si aprivano sul parco. La notte era buia e meravigliosa, trapunta di tremule stelle lontane, ma quella notte essi non guardavano le stelle. Se la conversazione di Mary Poppins aveva davvero recato un messaggio, c'era da vedere qualcosa di ben più interessante. Guarda! Jane inghiottì un po' di saliva per l'emozione e puntò il ditino. Là, nel parco, proprio vicino al cancello d'entrata, si innalzava la strana costruzione a forma di arca, saldamente ormeggiata a una quercia. «Ma come ha fatto ad arrivare lì?» disse Michael, spalancando gli occhi. «Questa mattina si trovava dall'altra parte del parco». Jane non rispose, era troppo occupata a guardare. Il tetto dell'arca era aperto e vicino alla scala Nelly Rubina si dondolava sul suo disco rotondo. Dall'interno lo zio Dodger le porgeva, uno dopo l'altro, fasci di rami di legno dipinti. «Pronta, Mary Poppins?» domandò Nelly Rubina gettando giù una bracciata a Mary Poppins che si teneva sulla passerella in attesa. L'aria era così nitida e quieta che Jane e Michael, rannicchiati nel vano della finestra, potevano udire ogni parola. All'improvviso vi fu un gran rumore, come se una figura di legno fosse caduta sul pavimento. «Zio, Dodger, attenzione per favore, sono fragili!» lo ammonì severamente Nelly Rubina. E lo zio Dodger, tirando su una pila di nuvole dipinte, replicò in tono di scusa: «Oh, perdonami, mia cara!» Seguì il gregge di pecore di legno, tutte rigide e solide, e ultimi gli uccelli, le farfalle e i fiori. «Questo è tutto», disse lo zio Dodger, e uscì attraverso il tetto aperto. Sotto il braccio portava il cuculo di legno, ora completamente dipinto di grigio, e in mano teneva un grosso barattolo di vernice verde. «Benissimo», disse Nelly Rubina. «Ora, se siete pronta, Mary Poppins, cominciamo». E allora iniziò uno dei più strani spettacoli che Jane e Michael avessero mai visto. Mai e poi mai, pensavano, avrebbero potuto dimenticarlo, neppure vivendo fino ai 90 anni. Dal mucchio di legno dipinto, Nelly Rubina e Mary Poppins tolsero ciascuna un lungo tralcio di foglie e, saltando nell'aria, le attaccarono rapidamente ai rami spogli e gelati degli alberi. A quanto pare, i tralci si agganciavano facilmente perché in meno di un minuto erano attaccati agli alberi. E appena ognuno era stato messo a posto, lo zio Dodger accuratamente dava una pennellata di vernice verde sul punto in cui il tralcio si congiungeva all'albero. «Santo cielo! Santo cielo!» esclamò Jane mentre Nelly Rubina saliva agilmente in cima a un alto pioppo e vi attaccava un largo ramo. Ma Michael era troppo stupito per fare commenti. I tre proseguivano per tutto il parco e saltavano sui rami con tale agilità che sembrava avessero le ali, e in breve tempo ogni albero del parco fu rivestito di tralci di legno e dipinto accuratamente con una pennellata dallo zio Dodger. Ogni tanto Jane e Michael udivano la voce acuta di Nelly Rubina gridare: «Zio Dodger, attenzione!» e la voce di zio Dodger domandare perdono. Ecco che Nelly Rubina e Mary Poppins presero fra le braccia le nuvole di legno piatte e dipinte di bianco. Con queste volarono più in alto ancora e le premettero contro il cielo. «Si attaccano! Si attaccano!» gridò Michael addirittura elettrizzato. Infatti, contro il luminoso cielo scintillante, le bianche nuvole piatte si attaccavano a meraviglia. «Ora!» gridò Nelly Rubina mentre scendeva. «Le pecore!» Con molta cautela, su un lembo di prato ricoperto di neve, poggiarono il gregge di legno, radunando nel centro le pecore più grosse e intorno i bianchi agnellini. «Il lavoro procede!» esclamò Mary Poppins mentre poneva l'ultimo agnellino sul prato. «Non so cosa avremmo fatto senza di voi, Mary Poppins, proprio non lo so», disse Nelly Rubina con voce allegra. Quindi, in tono assai diverso: «I fiori, per piacere, zio Dodger, e sbrigati!» «Ecco, mia cara», roteò in fretta accanto a lei con il grembiule colmo di bucaneve, di anemoni e di aconiti. «Oh, guarda, guarda!» gridò Jane saltando dalla gioia. Nelly Rubina infilava i fiori in un'aiuola vuota del parco, roteò infilzando fiori nell'orlo e allungava ogni tanto la mano per prenderne un altro dal grembiule di zio Dodger. «È proprio bello!» esclamò Mary Poppins ammirata, e Jane e Michael furono sorpresi dal tono amabile e cordiale della sua voce. «Sì, vero?» trillò Nelly Rubina mentre si spazzava via la neve dalle mani. Che spettacolo! Cosa rimane ancora, zio Dodger? Gli uccelli, mia cara, e le farfalle? Tese il suo grembiule. Nelly Rubin e Mary Poppins afferrarono le rimanenti forme di legno e corsero in fretta per il parco, poggiando gli uccelli sui rami o nei nidi e lanciando in aria le farfalle. E la cosa più curiosa era che esse rimanevano sospese in aria, senza cadere. Eccola! Credo che questo sia tutto, disse Nelly Rubina, fermandosi sul suo disco, con le mani sui fianchi, mentre girava lo sguardo sul lavoro fatto. «Oh, una cosa ancora, mia cara», disse lo zio Dodger, e con gesti ineguali, come se il lavoro della sera lo facesse sentire più vecchio e stanco, scivolò verso il frassino, presso i cancelli del parco, prese il cuculo da sotto il braccio e lo poggiò su di un ramo tra le foglie di legno. «Qua! Mio fringuello, qua, piccioncino», disse teneramente all'uccello. «Zio Dodger, quando mai imparerai? Non è un fringuello, non è un piccione, è un cuculo!» Egli chinò la testa mortificato. «Piccioncino di un cuculo, ecco cosa volevo dire, perdonami, cara!» «Bene, adesso, Mary Poppins, temo che sia proprio ora di andarcene», disse Nelly Rubina. Rullò verso Mary Poppins, prese fra le mani di legno la rosea faccia di lei e la baciò. «Arrivederci presto, tra-la-la-la!» gridò gaiamente e si avviò lungo la passerella dell'arca e su per la scaletta. Quando fu in cima, si volse e agitò la mano con cordialità a Mary Poppins, quindi, con un rumore di legno smosso, si lasciò cadere giù e scomparve nell'interno. «Zio Dodger, andiamo, non farmi aspettare!» gridò da dentro la sua voce acuta. «Vengo, cara, vengo, abbi pazienza!» Lo zio Dodger scivolò verso la passerella, scambiando una stretta di mano con Mary Poppins lungo il cammino. Il cuculo di legno si sporse a guardare dal suo ramo di legno. Lo zio Dodger gli lanciò un triste sguardo affettuoso, quindi il suo disco piatto si innalzò nell'aria. E se ne udì il rimbalzo quando cadde sul pavimento. Il tetto si richiuse con un clic. «Levate l'ancora!» comandò dall'interno la voce trillante di Nelly Rubina. Mary Poppins avanzò e slegò dall'albero la corda che venne tirata dentro attraverso una delle numerose finestre. «Fate strada, per favore!» gridò Nelly Rubina. Mary Poppins si trasse indietro in fretta. Michael, tutto emozionato, afferrò il braccio di Jane. «Se ne vanno!» gridò mentre l'arca si sollevava da terra con movimenti lenti e pesanti. Salì, dondolando incerta fra gli alberi, poi, ritrovato l'equilibrio, si avviò spedita nel cielo. Da una delle finestre un braccio si agitava in segno di saluto, ma prima che Jane e Michael potessero rendersi conto se fosse quello di Nelly Rubina o di zio Dodger, l'arca aveva raggiunto una così grande altezza che un angolo della casa la nascose alla vista. Mary Poppins restò un momento accanto ai cancelli del parco, agitando i guantoni di lana. Quindi, con passo rapido, percorse il viale e il sentiero del giardino. La chiave della porta d'ingresso cigolò nella toppa. Un passo cauto risuonò per le scale. «Presto, torniamo a letto!» disse Jane. «Non deve trovarci qui!» Scesero dalla seggiola, accanto alla finestra, infilarono la porta e in due salti furono a letto. Ebbero appena il tempo di mettere la testa sotto le coperte, prima che Mary Poppins entrasse cauta, in punta di piedi. «Zup!» era il cappotto appeso all'attaccapanni. «Crack!» era il cappello che scivolava nel suo sacchetto di carta. Ma non udirono altro, perché prima che Mary Poppins avesse finito di svestirsi, Jane e Michael, rannicchiati sotto le coperte, si erano addormentati profondamente. Cucù, cucù, cucù. Attraverso il viale arrivò il verso acuto dell'uccello. Corpo di Bacco! Gridò il signor Banks mentre si insaponava la faccia. È arrivata la primavera! E posato il pennello della barba, corse in giardino. Gli bastò un'occhiata e voltando di scatto la testa chiamò a gran voce: Jane, Michael, Barbara, Giovannino, scendete! La neve se n'è andata ed è arrivata la primavera. A salti i bambini scesero per le scale, uscirono dalla porta d'ingresso e giunsero sul viale affollato di gente. A bordo, tuonava l'ammiraglio Boom, agitando la sua sciarpa. Corde e pioli, granchi e aragoste, ecco la primavera! Disse la signorina Lark mentre usciva in fretta dal cancello. Finalmente una bella giornata! Stavo pensando di comprare due paia di stivali ad Andrea e Willoughby, ma ora non è più il caso, poiché la neve se n'è andata. A queste parole Andrea e Willoughby si sentirono assai sollevati e le leccarono le mani in segno di riconoscenza. L'uomo dei gelati pedalava su e giù lentamente in attesa di clienti e oggi sul suo cartello si leggeva: Ecco la primavera, il gelataio spera che dal suo carrettino vorrete un gelatino. Lo spazzacamino, munito di una scopa, camminava lungo il viale, guardando a destra e a sinistra con un'aria soddisfatta, come se quella bella giornata fosse merito suo. In mezzo all'eccitazione generale, solo Jane e Michael restavano quieti, guardandosi intorno con occhi pieni di stupore. Ogni cosa brillava e riluceva alla luce del sole. Non si vedeva lì intorno un solo fiocco di neve. Da ogni ramo occhieggiavano tenere gemme di un verde pallido. Alle orlature delle aiuole, nel parco, ciuffi di aconiti, anemoni e bucaneve formavano artistiche macchie di giallo, di bianco e di azzurro. Giunse il guardiano del parco, che ne raccolse un mazzetto e se li infilò con civetteria nell'occhiello della giacca. Da fiore a fiore volavano le farfalle variopinte e smaglianti, e sui rami passeri e rondini, usignoli e fringuelli, cantavano melodiosamente mentre si costruivano il nido. Un gregge di pecore, seguite da teneri agnellini, avanzava belando con dolcezza e dal frassino, presso i cancelli del parco, giungeva il noto richiamo: Cucù, cucù, cucù. Michael si volse a Jane. I suoi occhi scintillavano. Ecco cosa stavano facendo Nelly Rubin e lo zio Dodger e Mary Poppins. Jane assentì mentre si guardava intorno piena di meraviglia. Fra le pallide fronde scintillanti di gemme, una figura grigia si dondolava avanti e indietro, sul ramo del frassino. Cucù, cucù! Ma io pensavo che fossero tutti di legno dipinto, disse Michael. Sono diventati vivi durante la notte, secondo te? Forse, rispose Jane. Cucù, cucù! Jane afferrò la mano di Michael, il quale, come se indovinasse il segreto pensiero di lei, corse con la sorella per il giardino, lungo il viale e giù nel parco. Oi, dove andate voi due? Li chiamò il signor Banks. Oi là, marinai! Tuonò l'ammiraglio Boom. Vi perderete! Li ammonì la signorina Lark con la sua voce acuta. L'uomo dei gelati fece tintinnare con forza il suo campanello e lo spazzacamino li fissò occhi spalancati. Ma Jane e Michael non vi badarono. Continuarono a correre attraverso il parco sotto gli alberi, diretti al luogo ove avevano visto l'arca per la prima volta. Là si arrestarono ansimanti. Sotto gli scuri alberi faceva freddo e c'era un'ombra profonda. La neve non si era ancora disciolta. Scrutarono intorno cercando di vedere, di scoprire, ma c'era soltanto per terra una pesante coltre di fiocchi di neve. Se n'è proprio andata, disse Michael guardandosi intorno. Credi che ce la siamo soltanto immaginata? Domandò dubbioso alla sorella. Jane si chinò all'improvviso e raccolse qualcosa tra la neve. No, disse sottovoce, sono sicura che non abbiamo sognato. Aprì la mano e nella palma giaceva una caramella conversazione di forma rotonda e color rosa. Lesse forte le parole: Arrivederci all'anno prossimo. Nelly, Rubina, Noè. Michael tirò un profondo sospiro. Ecco chi era. Lo zio Dodger aveva detto che era la figlia maggiore, ma non l'avrei lontanamente immaginato. Ha portato la primavera. Jane parlò come in sogno mentre fissava la conversazione nel palmo della mano. Vi sarò obbligata, disse una voce dietro a loro, se verrete subito a casa a fare colazione. Era Mary Poppins. Si volsero con l'aria di due colpevoli. Stavamo proprio. Cominciò a spiegare Michael. Beh, smettetela, lo zittì Mary Poppins. Si chinò sulla spalla di Jane e prese la conversazione. Questa, credo, è mia, osservò, e ponendola nella tasca del suo grembiule, si incamminò verso casa. Michael, nel seguirla, strappò un tralcio di tenere gemme. Le esaminò attentamente e sembrano proprio vere adesso, disse. Forse erano vere anche prima, disse Jane. E una voce ironica giunse dal frassino. Cucù, cucù, cucù.